Partiamo bene, nel senso che siamo arrivati alla 12ª edizione del concorso Fuori dal Giro, quindi già una tradizione che si rinnova anche quest'anno, dove film della stagione, film anche poco distribuiti, film di autori interessanti che stanno crescendo, verranno presentati nel Cinema Cursal di Porretta. Poi abbiamo il sesto premio Petri, che come ormai è tradizione nel primo weekend annunceremo il film vincitore della cinquina che è stata poi proiettata durante il mese di novembre al Cinema Odeon e avremo due premi speciali. Due premi speciali, uno a Felice Laudadio, organizzatore di eventi, critico, scrittore, e all'attore Elio Germano per la sua stagione. Penso che ormai sono molte stagioni che fa un grandissimo lavoro di attore, però quest'anno abbiamo voluto, la giuria ha voluto dedicare a questo grandissimo attore il premio speciale e credo che sia meritatissimo. Poi l'immagine di quest'anno è un signore, perché per molti non, forse l'immagine non può, ed è normale che non dica molto, un signore in ascolto delle nuove, diciamo, delle nuove ondate di cinema che ci sono quest'anno. Quel signore è Glauber Rocha, che vinse a Porretta esattamente 60 anni fa con Il Dio Nero e il Diavolo Biondo, vinse la Naiade d'Oro, venne a Porretta in quel luglio del 1964 e da lì poi fu uno dei maestri del cinema nuovo brasiliano e da lì poi si conobbe in Europa il suo cinema, il cinema anche diciamo del terzo mondo, del Sud America. Quindi faremo un omaggio al grande regista con la pellicola che vinse a Porretta e anche con un'altra sua opera importantissima che è Antonio Desmortes del 1969. Poi abbiamo il Focus Emilia Romagna che quest'anno presenteremo, ma porteremo anche alle scuole, un film della stagione che ha riscosso grandissimo successo come Io e il Secco, verrà presentato a oltre 900 ragazzi e verrà anche presentato un film che è appena uscito e sta uscendo nelle sale ad oggi, che è The Truth of Sendai City, un film d'animazione del bolognese Marco Bolognesi, quindi è un'anteprima regionale, quindi siamo molto contenti che anche lui abbia voluto presentare la sua opera a Porretta. Per quanto riguarda questa immagine del signore in ascolto, questo ascolto è detto per avere anche un polso di quello che sta succedendo. È un po' il filo conduttore anche di questa edizione. Beh, sì, lo è stato forse nelle ultime edizioni, in particolare in questa del 2024. E ascoltare le nuove tendenze del cinema italiano, ma anche del cinema straniero. Quest'anno noi avremo un focus, un omaggio con due nostre, diciamo, due nostre sezioni che ormai vanno avanti da diversi anni sulla Spagna, perché avremo l'anteprima del film indicato per la Spagna agli Oscar 2025, quindi sarà un'anteprima italiana, quindi è una che vedrete se verrete a Porretta, che è Saturn Return, che è Segundo Mundo, che è un film spagnolo del 2024. E poi, per la prima volta dopo grandi autori internazionali, è la volta di Pedro Almodóvar. Quindi presenteremo Pepi Lucebum e le altre ragazze del Mucchio, che è il suo primo film. E quando gli abbiamo scritto per chiedergli di poterlo presentare, è stato molto contento, visto che adesso uscirà il suo ultimo film a Porretta, si potrà vedere l'ultimo e il primo, ecco, in qualche modo. In presenza ospiti che saranno in proiezione, che accompagneranno la proiezione. Allora, tutti i registi del concorso Fuori dal Giro, tutti i film verranno accompagnati dall'autore o dall'attore, perché è ormai tradizione che dopo la proiezione del film c'è quello che chiamo adesso il Q&A, comunque il È il dibattito. dibattito, chiamiamolo così. Chiamiamolo così, assolutamente. Poi verrà per dire Andrea Lattanzi, l'attore che sta crescendo tantissimo in questi ultimi anni, per accompagnare proprio il film Io e il Secco e raccontare il suo lavoro, il suo mestiere nel cinema, che è l'attore, ai ragazzi delle scuole superiori. Verrà anche il regista del concorso del premio Petri, appena lo decideranno, però hanno dato tutti la disponibilità per venire a ritirare questo importante premio, quindi anche sabato avremo. E poi ci sarà un incontro a cui io tengo molto perché è un compaesano amico, in Ho qualche già capito modo, chi è. che è Francesco Guccini. Peraltro è un evento più unico che raro perché Francesco ha sempre parlato di politica, di società, di musica, ma mai di cinema in modo approfondito, e si incontrerà anche il pubblico insieme a Steve Della Casa, e lui sappiamo già, ce lo racconterà, che ci sono suoi 5 film del cuore. Ve ne posso anticipare uno perché è già in programma, che è L'attimo fuggente, quindi verrà presentato alle ore 14 di sabato 7 dicembre, e gli altri 4 dovete essere a Porretta per sapere. Giustamente. Allora, dal 5 dicembre fino al 15 dicembre 2024, un altro incontro che vogliamo sottolineare assolutamente è quello ormai con la retrospettiva. La retrospettiva quest'anno è un altro amico è un altro delle nostre parti, ma sì, per questo conosciuto a livello internazionale, che è Giorgio Diritti. Quindi Porretta omaggio a Giorgio Diritti con un incontro insieme ad Andrea Morini all'Hotel Helvetia il domenica 18, e presenterà durante la settimana tutti i suoi 5 film di lungometraggio di finzione. Quindi penso sia forse la prima volta che si crea una retrospettiva completa su Giorgio Diritti, e questo a noi ci fa molto piacere. C'è tante cose da vedere per chi ne avesse voglia. Da incontrare, da dialogare. Quindi il Porretta Film Festival è arrivato a questa nuova edizione 2024, a diverse sedi, oltretutto vedo nel programma qui di fronte a me, e a modalità di partecipazione a livello logistico vogliamo dare qualche informazione, biglietti. Prenotazioni. Ok. Allora, per l'incontro con Francesco Guccini, che sarà anche quello all'Hotel Helvetia, bisogna prenotare all'indirizzo mail info@porrettacinema.com. I biglietti sono un prezzo veramente popolare, ormai fermo da anni a 3 euro. E l'abbonamento, peraltro ci sono oltre 11-12 film a pagamento, sarebbero solo 20 euro. Poi quest'anno ci abbiamo come supporto il treno Trenitalia, sì, TPR. Chi arrivasse col treno e avesse il biglietto avrebbe l'entrata gratuita. Cosa ti aspetti? Cosa desideri da tutto ciò, da questa edizione? Ah, posso rispondere che finisca? No, sto scherzando. No, vedere la gente che ha lavorato tutto l'anno al festival e il pubblico che arriva ed è felice, contento, in una situazione molto informale dove tutti possono incontrare tutti, non ci sono tappeti rossi, dove il cinema è molto accogliente ed è libero da ogni imposizione, credo vedere la felicità di tutte queste persone sia, adesso lo dico sinceramente, abbastanza forte per me, quindi è la cosa più bella. Poi che funzioni e poi che finisca e poi che finisca in questo modo. Grazie. Grazie. Luca.